Eccoci, adesso siamo su Radio Onda Rossa e stiamo iniziando l'agenda, che è oggi tutto dedicato alle cose che si sono fatte questo weekend per la giornata internazionale della lotta contro le violenze degli uomini contro le donne. E iniziamo subito con un testo che ci è arrivato dalle nostre compagne di Medea di Torino e che racconta un po' il loro punto di vista sulla giornata. Eravamo tentate di non scrivere nulla, quasi a voler ignorare questa giornata ormai divorata e svuotata di qualunque senso. La violenza maschile sulle donne è diventata un brand utile a vendere e a comprare qualunque cosa: abiti da sposa, biancheria intima, consenso popolare, audience televisivo. Sono vittima di violenza, quindi valgo, e se necessario me lo rivendico pure con un bel coming out pubblico. Le donne sono sempre oggetto, prima, dopo, durante. Ma quel che continua a sconvolgerci è la rimozione pressoché totale del soggetto agente di quella violenza. La violenza è domestica, come se un mattarello o un ferro da stiro potessero prendere vita propria e volarci sulla fronte per spaccarci il cranio. La violenza è di genere, di uno qualunque, di tutti, di nessuno, chi lo sa. Forse la prossima meriterà pure una bella degenderizzazione attraverso l'asterisco. La violenza non è mai esplicitamente maschile. Il soggetto non viene nominato. E ora che anche la parola femminicidio è diventata così trendy, ci si può tranquillamente dimenticare di menzionare il soggetto e omettere questo piccolo insignificante particolare. La donna, sì, viene nominata, ma allo stesso tempo spogliata di qualunque capacità di presa di parole e di azione. La donna è sempre e comunque oggetto del discorso. E se dovesse sfuggire a questa definizione, allora non merita interesse, attenzione, compassione. La donna viene imprigionata immediatamente in uno stereotipo sessista di donna vittima, soggetto debole da tutelare e difendere. Certo che la donna in quel frangente, in un contesto di violenza subita, è la parte debole, ma ben altra cosa è costruirla addosso un immaginario di fragilità tout court. Debolezza non solo fisica, vista la disabitudine alla reazione fisica, ci hanno insegnato che le donne non menano, ma anche psicologica, perché le botte distruggono non solo il corpo, e la dipendenza psico-economica è un dato assolutamente reale. Ben altra cosa è legiferare sui corpi delle donne e strumentalizzare quella violenza per militarizzare un territorio, per criminalizzare i o le migranti, per controllare le persone attraverso la paura. Se ti ribelli, se alzi la testa, in casa come fuori, sono mazzate. Se dici no a tuo marito, al tuo compagno, a tuo padre, al tuo ex, se dici no sul posto di lavoro, se dici no manifestando il tuo dissenso in piazza, se dici no, allora diventiamo tutte insieme l'eco infinito di quei no. Impariamo a difenderci, a solidarizzare tra donne, ad autodeterminarci. Impariamo a pretendere dagli uomini che abbiamo intorno, mariti, figli, compagni di vita e di lotta, un'attenzione e una consapevolezza maggiore rispetto alle relazioni, ai ruoli. Impariamo a esigere che certe questioni, anche dentro il movimento, non siano più la politica di serie B. Impariamo a dire no, a dirlo insieme e a dirlo sempre più forte. Impariamo a pensare di essere forti, potenti e capaci di reagire. Impariamo a ribellarci. Impariamo l'autonomia. Trasformiamo la paura in rabbia, la rabbia in forza, la forza in lotta. È una via faticosa, ma indispensabile. Le compagne di Medea. J'estime que le rap est positif. Autrement dit, le rappeur est positif. Batash Moustania Tarawa. Infatti in questo testo è detto tutto, abbiamo fatto il giro di tutte le cose che comunque critichiamo in queste giornate, quando anche si vedono i cartelli dei sindacati, del comune di Roma, del mainstream che comunque mette in mezzo la donna vittima come se sta fosse una fatalità. Abbiamo con noi anche Monica nel studio. Ciao a tutte e a tutti. Sì, devo dire che infatti questa cosa che tu mi dicevi mi faceva venire in mente la meravigliosa scenografia che campeggiava ieri in Piazza del Campidoglio a Roma, fatta con i soldi dell'Enel, bisogna ricordarselo, perché ormai ovviamente solo il mercato, solo le multinazionali si possono permettere di fare tutto, no? Facevano da anni solidarietà, energie rinnovabili, e adesso si occupano quindi ovviamente della nuova gallina dalle uova d'oro, che è la violenza sulle donne. E purtroppo questo appunto preoccupa moltissimo, perché in questo modo il mercato diventa proprio la sovraidentità del potere, di qualsiasi potere nazionale e istituzionale. E io credo che le donne mai come oggi si devono guardare e devono combattere e trovare degli strumenti sempre più efficaci, ovviamente degli strumenti a livello di elaborazione politica contro le istituzioni, perché sono delle istituzioni sempre più sciocche, perché subalterne ad un potere che è più grande di loro. E questa meravigliosa riflessione che hanno fatto le compagne di Medea ce lo hanno ricordato. Però, come sappiamo insomma bene, poi ieri sono successe un sacco di altre cose, nonostante le istituzioni si siano impossessate del 25 novembre, non del tutto quest'anno, perché sono successe un sacco di cose molto, come dire, divertenti e graffianti anche a Roma e un po' ovunque. Sì. Allora sì, continuiamo solo su questa cosa di divertente, dicevi, e forse anche un po' più, che ci tocca un po' di più e che ci fa piacere, che è quel tipo di azioni. Infatti ieri sera che è successo? Allora, un blitz nella Basilica di San Lorenzo al Verano in solidarietà con le Pussy Riot, proprio nel giorno della visita del presidente Vladimir Putin a Roma. Così il collettivo femminista Cagni e Sciolte, del mondo della sinistra extraparlamentare della capitale, ha deciso di celebrare il 25 novembre, giornata indetta dall'ONU contro la violenza sulle donne. Free Pussy Riot Roma recita lo striscione che le attiviste, rigorosamente a volto coperto con balaclava, hanno srotolato in mattinata davanti all'altare della chiesa San Lorenzina per contestare la scelta delle autorità russe di perseguire penalmente Nadezhda Tolokonnikova, ora ai lavori forzati in Siberia, e le altre componenti del gruppo punk per un'esibizione non autorizzata contro Putin nella cattedrale russa di Cristo Salvatore a marzo del 2012. Sputiamo su Putin, la rivolta è fica, è uno degli slogan scelti. Naturalmente la dimostrazione romana non vuole essere solo un gesto di solidarietà a distanza verso le Pussy Riot, ma è anche una contestazione della visita di Putin a Roma. Mentre le istituzioni incontrano Putin e il Papa lo riceve in Vaticano, noi invece esprimiamo la nostra solidarietà per le Pussy Riot e tutte le persone perseguitate in Russia per il proprio orientamento sessuale, recita una nota di Cagni e Sciolte, che prendono il nome da un noto manifesto femminista del 1968, e continuano. Il nostro dissenso per la presenza di Putin a Roma non ci impedisce di denunciare la tendenza delle politiche italiane a vittimizzare le donne, a proporre leggi sempre più repressive in loro nome, come dimostrato dalla recente legge sul femminicidio. La visita di oggi del presidente russo è l'emblema dell'ipocrisia delle cariche istituzionali, che spendono parole di indignazione contro la violenza sulle donne mentre continuano ad ostacolare la loro reale autodeterminazione. Non dimentichiamo neanche il ruolo della Chiesa nel determinare provvedimenti che limitano la libertà delle donne e delle persone LGBTQI. Siamo per questo convinte che Sacra Romana Chiesa e Chiesa Ortodossa riusciranno a trovare dei punti d'incontro. Un accordo tra patriarchi sui nostri corpi si trova sempre. Eh sì, ieri c'è stato appunto un presidio ieri sera praticamente sotto piazza del Quirinale, perché come sappiamo bene appunto Putin veniva ricevuto sia dal Papa che appunto dal presidente Napolitano, poi è stato ricevuto anche da altre cariche, e quindi 50-60 compagne in presidio sono andate con vari appunto con striscioni e cartelli che parlavano ovviamente appunto ricordavano tutta una serie di striscioni, non soltanto quelli che sono stati già detti nel comunicato, ma anche molti altri, si sono aggiunte anche diciamo donne e attivisti anche c'erano lungo il cammino, militanti, e devo dire c'è stata una particolare veemenza esposizione di forza da parte della polizia, molto molto nervosismo da parte loro, e questa cosa devo dire dovrebbe non sorprendere, però obiettivamente come dire, sorprende sempre perché non, come dire, non c'è mai fine al peggio, però c'è stata una grande capacità di, ovviamente, di tenuta, e anche perché di fatto si è state trattenute per abbondante tempo, mezz'ora, tre quarti d'ora, a non fare nulla, e devo dire che però per fortuna c'era soprattutto molta parte delle, ovviamente, delle compagne che svolgono lavoro di informazione indipendente, ma c'era anche della stampa internazionale, e purtroppo, insomma, voglio dire, forse visto la location che non era proprio esattamente, come dire, in quel momento, no, poteva essere diciamo affollata di tante persone, perché sappiamo che Piazza del Quirinale non è un luogo come Via del Corso, forse, voglio dire, visti i tempi di repressione che sono molto molto cupi, di questi tempi, anche questa cosa, anche che c'era della diciamo della stampa internazionale in qualche modo di sponda, poteva aiutare. Sì, ha veramente meravigliato questo nervosismo. Però gli striscioni, la protesta, gli urli, il fatto che la manifestazione è sempre transgenerazionale, che ci sono molte compagne di tutte le età, e ci sono tutte le compagne che si sono fatte i percorsi degli ultimi anni, e tutte le compagne, diciamo, più giovani, no, che anche non conosci perché non hai avuto modo di incontrarle, e ce ne sono moltissime. Questa cosa, devo dire, che fa sempre un enorme piacere, è sempre una cosa molto bella, e scatta subito quella solidarietà, insomma. Una cosa che volevo ricordare a proposito dei Pussy Riot: è vero che abbiamo in mente questo blitz che hanno fatto nella cattedrale lì a Mosca. Ma cioè, loro comunque non era l'unico momento in cui, cioè, da mesi e da mesi facevano dei blitz e denunciavano il legame tra lo Stato e la Chiesa ortodossa, e penso che è importante, perché comunque questa cosa che in Italia, cioè, non solo in Italia, ma comunque la Chiesa cattolica è come influenza le decisioni dello Stato, e dunque non è solo su un blitz che hanno fatto lì, che sarebbe immorale o contro una religione, anche un percorso che da mesi portavano avanti anche durante le elezioni, su questo fatto dei legami forti e dell'influenza e della sotto la sottomissione dello Stato alla Chiesa. Sì, è vero, questa è una cosa molto importante, hai ragione, perché altrimenti si corre il rischio di rimanere schiacciati sulla mediatizzazione del fenomeno, invece. Sì, poi comunque dopo c'è tutta la repressione contro la comunità LGBT, che comunque anche questo è stato preso, ma c'è, per dire. Ok, facciamo un piccolo stacco musicale prima di tornare nelle nostre iniziative del weekend scorso. Passiamo alle iniziative e azioni del laboratorio sociale autogestito delle donne di Il Centocelle. Dunque, questo weekend hanno fatto tre iniziative, no? Sì, sì. Esatto, nonostante il gelo, c'è stata pure una biciclettata sabato per 100 celle sulla mobilità sostenibile, ovviamente. E venerdì invece, venerdì 22 novembre, si è stata proprio una giornata d'incontro sulla giornata per la giornata della violenza maschile sulle donne, ed è stato un incontro partecipato con una serie di realtà. C'era Francesca Koch della Casa Internazionale delle Donne. C'era il laboratorio De Crescita, c'era Bifri con Oria Gargano, ha partecipato pure Zero Violenza Donne, e insomma devo dire è stato un incontro di scambio abbastanza profondo. Ma la cosa importante è che sottolineare è che nei territori si stanno tenendo tutta quanta una serie di appunto di riflessioni come questa qui a 100 celle, che sono nati da percorsi di donne che fanno politica militante sul territorio da tantissimo tempo. In particolar modo il laboratorio sociale 100 celle lo fa da prima del 2007, ma poi nel 2007 si è unito al percorso della manifestazione del 24 novembre, e quindi diciamo che da allora è importante dire che insomma i rapporti rimangono, che quindi poi le compagne si ricontinuano a incontrare, rimettono insieme anche la loro esperienza, no? E devo dire il fatto di incontrarsi. Adesso stiamo anche pensando ad altre future iniziative che appunto vi andremo a leggere, fa capire insomma anche la ricchezza di quello che si muove sui territori. E dunque allora leggo. Allora ci sono ancora 4 appuntamenti in programma: giovedì 28 novembre alle 19, video, musica, narrazioni con Paola Staccioli e Silvia Baraldini, un incontro dal titolo Genere rivoluzionario, storie di donne internazionaliste, con testi tratti da Non per odio ma per amore di Paola Staccioli e di Giuliani. Quindi questo giovedì 28 novembre alle 19. Sabato 30 novembre alle 20:30 il trio della menestrella femminista Nicoletta Salvi offrirà uno spettacolo. Venerdì 6 dicembre alle 21, Papavero Rosso, femminicidio, riflessioni in un unico atto, un atto teatrale con regia di Lidia Vadalà e Marcella Giunti. E infine sabato 7 dicembre alle 21, Milonga contro la cultura sessista, il tutto presso l'Associazione Culturale in Viale della Primavera 319B. Goodbye. He waited his whole damn life to take that flight, and as the plane crashed down, he thought, "Well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think?" Alle 18:38 siamo su Radio Onda Rossa, martedì autogestito da femministe e lesbiche nell'agenda, e andiamo adesso a sentire una compagna di Bologna che ci racconterà il presidio di ieri. Smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like red. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ah, perfetto. Ah, bello quando la tecnica ci obbedisce. Ah, grazie. Grazie alle idee della tecnica. E dunque, grazie a te di essere con noi al telefono. E se vuoi, raccontaci un po' il Previsito di Bologna, anche il percorso iniziale, chi l'ha proposto, chi l'ha fatto, come è andato, eccetera. Va bene. Sì, il percorso a Bologna è stato molto articolato perché si è formato fin da subito, dai primi di settembre, un comitato cittadino per lo sciopero delle donne, che ha lavorato in maniera abbastanza sistematica. Il coordinamento era composto da realtà molto varie, tra cui la FIOM, la CGIL, i collettivi, quelle che non ci stanno, e tante altre compagne, insomma, così un po' tutte le compagne le femministe che ci sono a Bologna, e insieme abbiamo costruito sia lo sciopero, diciamo, e anche il corteo che poi abbiamo fatto ieri sera in piazza, che è andato molto bene. È stato un momento molto molto forte, perché dopo diversi anni, insomma, dopo l'ultima manifestazione di Roma, ci siamo ritrovate, che è stata nel 2007, che rimane come sì, un faro così, e diciamo che la manifestazione di ieri di Bologna è stata molto, molto partecipata, e c'erano tantissime donne di tutte le generazioni, con tantissimi contenuti, gli spezzoni molto variegati, con delle compagne giovani, studentesse, delle femministe storiche, insomma, così. E quindi è stato molto bello. Il corteo è stato breve, diciamo, come percorso, perché da Piazza 20 Settembre siamo arrivati in Piazza Maggiore, in Piazza Nettuno, però è stato molto intenso, insomma, perché abbiamo fatto molti slogan, era pieno di cartelli e di contenuti, insomma, così. E quando siamo arrivati alla fila abbiamo fatto gli interventi e abbiamo fatto un cerchio immenso di donne in Piazza Maggiore. Anche quello è stato un momento a livello energetico molto forte, insomma. Così. E questo è stato il nostro 25 novembre. È bello. Sì, è stato molto bello. È andato tutto molto bene e abbiamo saputo che anche come risposta rispetto allo sciopero a Bologna è stata molto alta, anche rispetto ad altre città, perché ad esempio abbiamo saputo che in molte fabbriche metalmeccaniche tipo 9 lo sciopero è stato fatto, è stato fatto anche in molte scuole dell'infanzia e anche scuole primarie, sia comunali che statali. Molte maestre hanno aderito, anche molto personale ATA, e quindi molte scuole sono rimaste chiuse oppure hanno lavorato tipo fino alle 10:30 e poi dopo hanno chiuso perché mancava l'annuncio, tutti i servizi. Quindi anche come sciopero, anche ovviamente non è stato uno sciopero di massa, però è stato significativo. Anche molte donne delle poste, del comune hanno partecipato allo sciopero, e poi cioè, queste informazioni stanno arrivando un po' così, poco per volta, insomma. Potrebbe essere un inizio. Esatto, diciamo che potrebbe essere un inizio. Infatti, insomma, noi siamo state molto contente, perché comunque diciamo che lo sciopero ha dato un'occasione nuova, cioè ha dato una sì. possibilità, un punto di vista di lotta diverso, che insieme agli altri, ovviamente, ai presidi e a tutto il resto, che è stato sicuramente significativo, insomma. Ok, guarda, grazie. Laila, grazie, ti ringraziamo, sì, grazie molto, e vabbè, la prossima, cioè, ci sentiamo ancora. Sì, ci sentiamo ancora, volentieri, per le prossime iniziative. Adesso, non so, sì, sappiamo che c'è l'iniziativa all'Aquila, probabilmente inizieremo a lavorare su quella, insomma, anche qua da sì Bologna. Per il 6 dicembre fra un po', esatto. Sentiremo una compagna che è andata sabato all'Aquila e ci racconterà un po' questo percorso che continua e comunque sì, puoi farlo comunque, l'appello a essere sotto il tribunale dell'Aquila alle 9 e il 6 dicembre. Perfetto, va bene, anche da Bologna ci muoveremo in questo senso, insomma. Ok, va bene. Grazie. Grazie a te, ciao. We can grow vegetables underneath the skylight. Clicking these downloads every day has its price. We can lounge on our couch and listen to our 45s. So take your dollar, your yen, those euros I can't spend. I won't get down with no pounds. Never need to leave this house. Don't need a money box. A proposito di presidi, dunque ieri è stato anche presidi indetto dalla coordinamenta, cioè che comunque sicuramente vi invito a ascoltare domani sera, che faranno il bilancio e anche i commenti sulle iniziative fatte. Purtroppo io non sono potuto andare. Ma comunque volevo almeno leggere le striccione che sono, cioè che loro hanno messo, la con chi siamo completamente d'accordo: la vostra legalità e violenza, o anche a Campo di Fori, o anche dalla Val di Susa alla Sardegna, la militarizzazione e cultura dello stupro. Prima di tornare alle iniziative del weekend, volevamo fare una piccola pausa parlando di un'iniziativa che si terrà a Firenze. Allora, un'iniziativa del Giardino dei Ciliegi, della Società Italiana delle Letterate di Firenze, in collaborazione con le Acrobate e Corrente Alternata. Un laboratorio dal titolo ABC della precarietà al laboratorio. Si terrà nella sede del Giardino dei Ciliegi in via dell'Agnolo 5 a Firenze dal 29 novembre al 1 dicembre 2013. Vi leggo brevemente il programma. Venerdì 29 novembre l'apertura, diciamo così, del laboratorio alle 15:30 con un intervento di Giorgia Bordoni e Azeb Luca Trombetta intitolato Vivere e lavorare da migrante, una doppia precarietà. Alle 16:45 nello stesso giorno, per un discorso sulla precarietà, un dibattito con Aldo Ceccoli, Federica Giardini e Renato Busarello, condotto da Maria Chiara Patuelli. Il giorno successivo, sabato 30 novembre, alle 9:30 Resisters, pratiche quotidiane di resistenza attiva alla precarietà, a cura di Corrente Alternata, e nel pomeriggio, dalle 15:30, Abbecedari precari, parole, pratiche e resistenza ai tempi della crisi, condotto dalle Acropade e Chiara Martucci. Infine, domenica 1 dicembre, alle 9:30, Prima di domani, quali immaginari sulla precarietà? Un dibattito condotto da Cristian Lo Iacono e Chiara Martucci. Per informazioni ed iscrizioni sul sito internet trovate tutti i dati, i contatti www.ilgiardinodeciliegi.firenze.it oppure www.interculturadigenere.eu. My skin is tan. My hair is fine. My hips invite you. My mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Continuiamo un po' di fare un resoconto delle iniziative e azioni che sono state svolte questa fine settimana e abbiamo con noi Cristina che è stata all'Aquila. Ciao Cristina. Ciao. Allora, sì, vi racconto anche questo 25 novembre, che in realtà si è svolto il 23 novembre, però insomma rientrava un po' in questa settimana che ho visto, anche sentendo la radio, insomma ha portato per fortuna tantissime donne nelle loro anche diverse forme, nelle piazze, insomma un po' in tutta Italia. Praticamente sì, un gruppo di compagni di Roma si sono recati all'Aquila, l'Aquila insomma abbiamo già parlato, il martedì ne ha parlato tutto l'anno scorso, anche quest'anno, di questo processo che si è svolto, di questo stupro soprattutto che si è svolto ormai il 12 febbraio del 2012, quindi quasi due anni fa, è avvenuto su una ragazza, una studentessa che studiava all'Aquila, ad opera di, secondo insomma la sentenza della, secondo il processo per conto di un militare, Francesco Tuccia, ma quella sera presenti in questa discoteca dove è avvenuto questo stupro erano presenti ben 3 militari e si parla anche di altri 2, insomma Buccella e Schiavone, che sono poi spariti dalle cronache giudiziarie. E praticamente questa ragazza ha subito uno stupro molto violento, molto efferato, insomma, le cronache poi del giornale e anche la radio l'abbiamo raccontato diverse volte, ed è stata portata a questo pronto soccorso dell'ospedale principale dell'Aquila, dove la prima persona che l'ha accolta era una donna, è stata una donna che le ha prognosticato, gli ha dato meno di 20 giorni di prognosi, che si danno praticamente neanche se quando ti rompi una falange di un dito, insomma, calcolando che poi, insomma, questa ragazza è stata in ospedale per ben 2 mesi e mezzo, ha subito diverse operazioni. Quindi le compagne di Roma, alcune compagne di Roma sono volute tornare in quella città prima del prossimo processo, ci sarà il 6 dicembre, ci sarà l'appello per questo processo, in occasione della settimana del 25 novembre, un po' per denunciare proprio davanti a questo pronto soccorso quelle che sono, noi pensiamo, un po' le ingerenze anche di tutto un apparato militare. E su un, diciamo così, anche e soprattutto delle strutture civili. Pensiamo, insomma, che non sia casuale che questa donna abbia dato meno di 20 giorni, che evidentemente abbia subito anche delle pressioni, visto, insomma, i componenti dello stupro, appunto tutti militari appartenenti all'operazione Strade Sicure, e per di più, insomma, abbastanza, soprattutto Buccella, abbastanza conosciuto all'Aquila, e proveniente anch'esso, insomma, da figlio di anch'esso, insomma, di poliziotti, un poliziotto e via dicendo. Quindi in qualche maniera un luogo che dovrebbe essere, appunto, una struttura civile, pubblica, accogliente, no? Visto che è il primo luogo dove le donne che vengono stuprate vengono portate, ed è il luogo poi che in qualche maniera anche dà purtroppo il via, per quanto riguarda la parte giudiziaria, alle indagini o piuttosto che alle omissioni anche delle prove e via dicendo, ma anche e soprattutto dove un luogo dove una donna dovrebbe sentirsi, dopo quello che ha subito, accolta, protetta. E soprattutto avere, no? Il fatto, una cosa che non fa che le indagini dei poliziotti si fermano perché il caso non è grave. Certo, perché comunque questo ha anche, cioè, delimitato l'inchiesta per il dopo, no? Sicuramente per il caso specifico ha fatto sì che per 48 ore non ci fosse nessun tipo di indagini, e quindi, insomma, questi 3 militari hanno continuato la loro operazione Strade Sicure nel territorio dell'Aquila, e per di più, insomma, hanno fatto sì che in qualche maniera non viene proprio riconosciuto quello che è un corpo anche di donna, un corpo anche stuprato, poi, no, urla ed è evidente rispetto a quelle che poi sono delle diagnosi, appunto, che danno così molto superficialmente all'ospedale. Ripeto, non penso poi che tutti gli ospedali siano così, però, insomma, nel corso della nostra storia, soprattutto quando pensiamo alle manifestazioni, piuttosto che ai momenti in cui pensiamo a tutto quello che è successo a Genova, insomma, tutto ciò che ha riguardato gli ospedali è sempre stato un luogo più controllato poi dalle forze dell'ordine, appunto dai militari, eccetera, perché è da lì poi che si fanno le omissioni più grosse, anche se poi, insomma, ciò non comporta che il fatto che i medici in qualche maniera siano del tutto conniventi, insomma, però sicuramente c'è un controllo da parte della polizia, delle forze dell'ordine, in questo caso anche dei militari, appunto, di queste strutture, dovrebbero essere pubbliche, civili, eccetera. Quindi si è deciso di andare là davanti, sono stati appesi 2 striscioni, uno diceva: il processo dell'Aquila lo conferma, lo stupro lo Stato lo vuole occultato, e poi contro stupratori, controlli omertà, con le donne la nostra solidarietà. Sono stati dati anche, appunto, molti volantini, c'è stato, insomma, il territorio dell'Aquila è un po', anche per chi c'è stata, abbastanza, non è che è stato ricostruito niente, è abbastanza frammentario, tutto dislocato, e anche l'ospedale praticamente sono luoghi deserti, però più o meno siamo stati lì diverse ore, per cui c'è stato un passaggio continuo di tantissime, abbastanza, di un bel po' di persone, quindi si è dato un volantino, si è cercato di parlare, di spiegare quello che era successo e anche di ricordare, appunto, questo appuntamento del 6 dicembre prossimo, che ci sarà questo appello sempre al Tribunale dell'Aquila, portata avanti, insomma, da questo Tuccia, dal militare Tuccia, e per quanto riguarda gli anni che gli sono stati dati, che gli sono stati dati 8 anni, anche se tutto ci poi gira libero per il territorio italiano o comunque per il suo paese. Grazie. Comunque ridiamo questo appuntamento che sarà, mi sa, alle 9 sotto il Tribunale dell'Aquila. Sì, che non è quello dell'anno scorso, è un altro, proprio dentro l'Aquila, un po' più dentro l'Aquila, per cui casomai appena sappiamo anche l'indirizzo preciso lo comunichiamo via radio. Perfetto, grazie mille. Grazie a Cristina. Voi. Grazie, ciao. A presto, ciao. A presto, ciao. Maybe, baby, the sunrise, maybe, baby. People dying everywhere. Can someone tell me who's to blame? There never used to be this much attention to security until the terror and catastrophe. Now there's guns and war machines. Sunrise, baby, baby, ooh, baby, baby, the stars are shining, baby, baby, no one is listening to the truth, or is it just me? I guess I must begin from now to make the change I always speak about. To break down all the boundaries and be free from those who take from me and mislead me, for they're greedy and they have to. Oh, oh, oh, baby, baby, the sunrise, baby, baby, ooh, baby, baby, the stars are shining. Le 19:13 e siamo nell'agenda del martedì autogestito da femministe lesbiche. Fra un po' avremo con noi al telefono una compagna che ci parlerà un po' di questa novità, come diceva la compagna di Bologna, una